Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Hai tanti orologi. Questa è una faccenda di gusto personale. Per me è una quantità assolutamente normale. Oh, scusa, lì c'è un cucù pazzoide. Vi ricordate, vero? Attenzione agli orologi. La prossima notte diremo addio all'ora legale. Le lancette, per chi ancora le ha, vanno posizionate un'ora indietro. Torneremo ad allinearci con l'ora solare. Lasciamo da parte Covid, crisi, coprifuoco, almeno per questa settimana, con l'economia delle piccole cose, perché se c'è un'abitudine che, come poche altre, ci ha condizionato per motivi economici nella nostra vita di tutti i giorni, è proprio questa. E allora, ben ritrovati da Anna Migliorati. E però potrebbe essere stata l'ultima volta che abbiamo spostato le lancette, perché la prossima primavera, Covid o non Covid, in questo non c'entra, potrebbe cambiare tutto. L'Europa infatti è a un bivio, è cosa vecchia nel mondo iperconnesso o vale ancora? Nell'indecisione la Commissione Europea ha deliberato che spetta ai singoli paesi scegliere, e così però ognuno lo fa ovviamente a suo vantaggio. La Francia, ad esempio, ha deciso che l'ora solare non va, quindi Parigi, l'ultima domenica di marzo del prossimo anno, del 2021, tornerà all'ora legale, ma per rimanerci per sempre. I paesi del Nord Europa, invece, vorrebbero rimanere sempre alla stessa ora, ma quella solare, perché le giornate durante l'estate al nord sono già sufficientemente lunghe. L'Italia non ha ancora scelto, l'idea però è proseguire con l'alternanza. E allora ve lo immaginate però il paradosso? Varcando ad esempio la frontiera di Ventimiglia o del Brennero, si potrebbe dover spostare le lancette dell'orologio in alcune stagioni e non fare nulla in altre. Allora, torniamo a riprendere da capo. La prima domanda è sempre la stessa. Serve? Ha funzionato in un anno così particolare in fatto di abitudini? La domanda la giro ad Antonio Disi, ricercatore NEA del Dipartimento Unità Efficienza Energetica. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. I dati dell'anno scorso, sono sempre, anche negli ultimi anni, sono sempre positivi e evidenziano un certo risparmio energetico a fronte di un investimento minimo. Ci sono altri elementi che potremmo andare a valutare, nel senso che è nata in un momento in cui forse l'energia elettrica era la principale fonte per la produzione dal punto di vista dell'illuminazione, poi la parte termica ognuno se la faceva a casa propria col camino, con la stufa, no? E adesso secondo me l'aspetto non è soltanto quello minuto del consumo di energia domestica, abbiamo i LED, quindi non è solo la lampadina, insomma, quella abbiamo imparato a risparmiare in altro modo. Sì, proprio la nostra capacità di utilizzare quell'ora di sole, di luce, per svolgere attività economiche che ci danno addirittura un risparmio non virtuale ma reale, e risparmio maggiore, perché il risparmio quello elettrico ci aggiriamo intorno ai 500 milioni di kilowattora anno, che sono 190.000 famiglie di elettrico all'anno. Non è pochissimo, però è uno dei tantissimi tasselli che concorrono alla politica energetica nazionale. Un'ora in più di luce, possiamo permetterci di facciamo outdoor, facciamo sport, turismo, di stare più tempo in strada, fare shopping. Quindi fa parte delle nostre attività economiche principali. Certo, fa un po' sorridere in un anno come questo, in cui ci dicono che lo shopping non dobbiamo farlo, che all'aperto non ci dobbiamo stare. Questo potrebbe essere un ulteriore tassello che dimostra l'efficacia di questo elemento, di questo cambiamento, perché in sostanza in realtà tipo la nostra, con una latitudine tipo la nostra, quindi paesi del sud europei dove l'economia è basata su attività outdoor, noi ne traiamo un grande vantaggio del poter utilizzare questa luce naturale per poter svolgere le attività economiche che noi svolgiamo. Gli incidenti che possono verificarsi nei paesi in cui, ad esempio, di mattina c'è la necessità di utilizzare l'illuminazione artificiale per muoversi, oppure della mancata produttività, questo chiaramente riguarda alcuni settori che sono molto più vincolati rispetto all'orario di inizio e di fine. anche in una società che dal punto di vista delle sue abitudini sta cambiando. Quindi il risparmio potrebbe essere diverso da quello dei decenni passati. Va attualizzato l'ora legale, non può rimanere quella di un tempo, delle candele o dell'illuminazione, ma deve essere qualche altra cosa. È un anno in cui siamo stati costretti in parte dei cambiamenti nella nostra giornata tipo, nel nostro lavoro, nella nostra quotidianità. Dobbiamo essere bene attenti a fare in modo che questi cambiamenti possano essere utili e tornare al nostro vantaggio. Grazie, e come abbiamo già detto, il primo impulso venne dall'economia. D'altra parte, Benjamin Franklin fu il primo a chiedersi come risparmiare sull'utilizzo delle candele nel 1784. Propose tra l'altro di vietare le uscite notturne, vi ricorda qualcosa, o usare sveglie rumorose per svegliarsi prima in alcuni mesi. Le sue idee non trovarono seguito fino ai primi del Novecento, quando furono riprese da un costruttore britannico, William Willett, che riuscì a diffondere. Perché? Perché bisognava risparmiare questa volta anche sul gas in crisi economica per la prima guerra mondiale. E ora, in questo 2020, 100 anni dopo, che facciamo? Facciamo i conti. Con Massimo Beccarello, professore al Dipartimento di Scienze Economiche all'Università Bicocca, benvenuto. Sì, un anno un po' particolare, però dobbiamo dormire un'ora in più anche con la soddisfazione che abbiamo risparmiato un bel po' di soldini, perché conti dell'Autorità per l'Energia, il vantaggio in termini di risparmio energetico ammonta a quasi 100 milioni di euro per le famiglie italiane, a cui si aggiungono poi, non trascurabile, i costi delle esternalità ambientali, che oscillano dai 7 ai 10 milioni di euro. Spieghiamo cosa sono le esternalità ambientali. Sì, per produrre energia, dove soprattutto da combustibili fossili, dove la percentuale è ancora importante nel contesto italiano ed europeo, bisogna pagare dei permessi e dei diritti ad emettere, e quindi risparmiare energia e consumare di meno significa produrre di meno. Paghiamo meno di questi permessi, insomma. Esattamente, quindi quasi 110 milioni di euro che stanno nelle tasche delle famiglie italiane. Vale importante anche per un anno come questo, quindi con meno aziende che lavoravano piuttosto che meno persone fuori, il risparmio comunque c'è stato. Assolutamente sì, c'è stato un risparmio, devo anche gli ultimi dati, il paese ha risparmiato oltre 1,5 miliardi negli ultimi 15 anni, quindi si tratta di un risultato importante, tra l'altro adottato dalla Commissione Europea da partire dal 2000, quindi anche un approccio standardizzato. Risparmiamo lo stesso che risparmiavamo nel 2000? Risparmiamo un po' meno? No, è sempre un risultato importante. Certo, va accompagnato in modo complementare da altre misure che riguardano le nuove tecnologie, dalle lampadine, degli strumenti di efficientamento energetico oggi a disposizione in misura importante, vediamo il super eco bonus. C'è il nodo europeo. Potremmo non rivedere, almeno non in tutta Europa, la prossima primavera, il ritorno dell'ora legale, cioè potremmo averla abbandonata per l'ultima volta, almeno in alcuni paesi. Dov'è il nodo? Abbiamo realizzato l'obiettivo di avere un mercato comune dell'energia, di conseguenza l'Italia è fortemente integrata sul piano elettrico agli altri paesi europei, importiamo circa il 10% dell'energia elettrica, si tratta poi di trovare anche, come dire, standard comuni che passano anche attraverso l'applicazione dell'ora legale in modo omogeneo tra tutti i paesi europei, che oramai possiamo parlare di mercato europeo elettrico perfettamente integrato a tutti gli effetti dal punto di vista tecnico. Per concludere, è una politica che funziona ancora, funziona se funziona per tutti, mi pare di capire. Sì, funziona. Diciamo che l'ora legale, da un punto di vista tecnico per il funzionamento dei mercati e la sua armonizzazione, è un presupposto, come dire, fondamentale per poi avere la regolamentazione di tutti i sistemi elettrici armonizzati, integrati, è un saving garantito per tutti quanti. E allora facciamo anche un paradosso, andiamo oltre? E se al contrario invece non solo non ci fosse il cambio dell'ora, ma nemmeno i fusi orari in Europa? Chiedo aiuto a Giuliano Noci, prorettore del polo cinese del Politecnico di Milano, per andare in Cina. Ma in Cina abbiamo un unico fuso orario, un'unica ora, che è l'ora di Pechino. L'ora di Pechino, detta la regola nella sterminata Cina, la situazione non è sempre stata questa. Nel 1919 fu sancita la presenza di 5 fusi orari, che nel 1939, quando iniziò la guerra col Giappone, venne cambiata in un unico fuso orario, era il fuso orario di Chongqing. Quando nel 1949 nasce la Repubblica Popolare Cinese, la capitale Beijing, Pechino, detta le regole, quindi si è spostato l'orario di riferimento portandolo un'ora indietro e lo si è portato dal fuso di Chongqing al fuso di Pechino. Ma su questo fronte diciamo che quello che conta è l'aspetto pratico per i cinesi. Basti pensare che ci sono 180 città con più di 1 milione di abitanti, centinaia di aeroporti in costruzione, centinaia di milioni di passeggeri che viaggiano nel corso della settimana. Il fatto di avere un unico fuso orario, un unico orario, è un elemento di enorme praticità. Tutti sanno quando si trovano in un paese grande come la Cina. Funzionerebbe un sistema così? Che vantaggio o svantaggio avrebbe per l'Europa, ad esempio? Guardi, mi lasci dire, l'Europa è piccola e vecchia e sta facendo anche confusione. Ma pensate quando io devo fissare una call con Londra, con Helsinki, con Stoccolma, dobbiamo dirci ma su quale fuso ci tariamo? Quello di Londra, quello di... Insomma, mi pare davvero in un mondo interconnesso in cui non ci sono più solo gli spostamenti fisici che in qualche modo ci danno il ritmo, no? Lei diceva, passo il Brennero e in qualche modo entro in un nuovo mindset, ma dove tutto facciamo online con Teams, Zoom e quant'altro. Ma le pare logico questo atteggiamento? Il nostro tempo finisce qui, la riflessione la lascio a voi. Dobbiamo distruggere l'orologio. Buon sabato, alla prossima storia da Anna Migliorati. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.